Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 21 giugno, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici sempre su Liberi Dentro ed Uradio e TV. Sono sempre Caterina Bombarda alla conduzione di questo programma con Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno, buongiorno a tutti. E siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV Canale 118. Oggi la nostra cronaca sociale è a partire dai minori in carcere. Leggo questo articolo da giuridica.net, genitori detenuti e minori al tempo dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Perché l'associazione Cammino, Camera Nazionale degli Avvocati per la Persona, le Relazioni Familiari e i Minorenni, evidenzia le lacune nella giurisprudenza relativa al diritto di un minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori nel corso della detenzione. È infatti trascorso oltre un anno, ormai lo sappiamo, dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, a cui ha fatto seguito una serie infinita di DPCM vari, volti a limitare gli spostamenti personali e imporre la permanenza domiciliare. L'impatto di questi DPCM è stato maggiormente sentito in tutte quelle situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità, come per esempio i minori e i soggetti privi della libertà personale. Caterina, come si è cercato di intervenire proprio per la salvaguardia dei soggetti più fragili? Allora, si è cercato di intervenire in due modi. Innanzitutto la richiesta da parte dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha chiesto misure urgenti per un bilanciamento tra l'esigenza da una parte della tutela della salute e quella dall'altra di salvaguardare i diritti dei minori e degli adolescenti in aggravata vulnerabilità sociale. Sulla stessa scia si è mossa anche l'associazione Cammino, come vi dicevo all'inizio, Camera Nazionale degli Avvocati per la Persona, le Relazioni Familiari e i Minorenni, che ha provveduto a una stesura di un decalogo relativo alla cura e al sostegno delle persone minori d'età, nel cui ambito è stato ribadito il diritto alla bigenitorialità, cioè il diritto di godere della presenza di entrambi i genitori, essendo questo fondamentale per garantire ai minori, anche nel periodo emergenziale, la possibilità di mantenere una relazione profonda, un rapporto significativo con entrambi i genitori e continuare a essere da questi educati e cresciuti. E naturalmente tutto nell'ottica di sottolineare e anche evidenziare quali sono state la portata e le ripercussioni che l'emergenza sanitaria ha avuto sul piano sociale e in particolare rispetto alle relazioni di tipo familiare. Caterina, immagino ci siano stati casi particolarmente difficili da sciogliere. Sì, vi è stata per esempio la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che da sempre è attento alla tutela dei minori, e per porre rimedio a una lacuna normativa per garantire ai figli di detenuti sottoposti al carcere duro la possibilità di svolgere i colloqui previsti anche con l'aiuto di mezzi tecnologici, così da rendere effettivo davvero il diritto inviolabile dei ragazzi, dei fanciulli, a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. E questo anche al fine di permettere una parità di trattamento tra figli minorenni detenuti sottoposti a regime ordinario rispetto a quelli sottoposti a regime speciale. Ma anche tutto questo in osservanza dell'articolo 27 della Costituzione, sempre lo citiamo perché la limitazione imposta dalla norma finisce in qualche modo per tradursi in un trattamento contrario al senso di umanità e alla finalità rieducativa della pena, nonché l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che rispettivamente vietano pene inumane e degradanti e garantiscono il diritto al rispetto della vita familiare. È molto importante, Caterina, quello che hai detto. E passiamo alla musica. Qual è l'autore che hai scelto per tutta la settimana? Allora, la musica di tutta la settimana è la musica di Eminem, grande rapper. Lo pseudonimo è Marshall Bruce Mathers, è nato nel 1972 a Detroit, è anche rapper, produttore discografico, attore statunitense ed è considerato uno dei migliori artisti hip hop di sempre. Oggi ascoltiamo My Name Is, che è con questa canzone che lui è stato lanciato e conosciuto in tutto il mondo, e vi racconto anche una curiosità. ha avuto problemi con la legge perché tutta la rubrica delle nostre canzoni sono dedicate in qualche modo ad artisti che hanno avuto problemi con la legge, sono andati in carcere, poi il loro percorso di rieducazione l'hanno fatto e comunque hanno continuato la loro carriera. E quindi anche lui è stato in carcere nel 2000 per aggressione aggravata in ben due liti, però poi è riuscito lo stesso. Ascoltiamolo. Excuse me. Can I have the attention of the class for one second? My name is Hi kids, do you like violence? Wanna see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Wanna copy me and do exactly like I did? Try sit and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off, and smacked her so hard I knocked her close backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute, that's my girl, dawg. I don't give a fuck, God sent me to piss the world off. Hi, my name is what? My name is what? My name is teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Flashed the bartender. Then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me. Let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy at White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. Hi, my name is Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Yep. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of vodka, dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk, I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head. Bang! I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, yeah, tell him that I slit his throat in this dream I had. My name is what? My name is what? My name is My name is E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio e sulle note di Eminem, My Name Is, abbiamo ascoltato. E ora con Antonella parliamo di un ingrediente segreto, per così dire, me lo racconti? Sì Caterina, parliamo di un ingrediente segreto che forse pochi conoscono. Conosciamo hummus, falafel, pane sottile, zuppe, salse, dolci con miele e pinoli, che sono tra i piatti tipici della cucina araba, famosi ormai in tutto il mondo. Però è poco noto l'ingrediente segreto senza il quale tutte queste ricette perdono il loro sapore e nessuno potrà mai brillare in cucina. E sai qual è l'ingrediente segreto? No, dimmelo tu. È il nafas, un termine arabo che si può tradurre con respiro o spirito, ma in realtà è molto più di questo, come spiega un articolo del New York Times. Vi leggo testualmente le parole. È un'energia che alcune persone possiedono e rende i loro pasti non solo buoni, ma eccezionali. Nafas come parola indiana significa appunto respiro, ma ha una sorprendente caratteristica data dal mutare di significato in alcune culture del mondo. Nafas, per esempio, è associata al significato di libertà nel sufismo, in Arabia invece la parola descrive la forza dinamica ispirata dalla persona al momento della nascita. Penso un po' che differenza. E invece in cucina cosa mi dici? Allora, in cucina il concetto è usato per riferirsi soprattutto a cuochi non professionisti, a chi cucina in casa con passione per i propri cari, insomma, qualcosa che si riferisce a cui tutti possono, diciamo, rivolgersi nel momento in cui si cucina con amore. E come spiega di nuovo il New York Times, riguarda la persona che prepara il cibo, come lo dispensa, sono il tempo e l'energia che spende a selezionare e preparare gli ingredienti. La paziente danza davanti e indietro con i sapori finché ognuno è perfetto. La presentazione è generosa e l'ospitalità calorosa, e soprattutto l'amore per la cucina e il desiderio di dare da mangiare agli altri. Viene voglia di averlo con sé sempre, quindi ti chiedo se tutti lo possiedono, se si può acquistare. Acquistare è una parola impegnativa perché non è chiaro se il nafas sia innato o possa essere acquisito. Scienziati ed esperti sono intervenuti nel dibattito. Infatti, secondo alcuni, i microbi che sono sulle mani di chi cucina e l'ambiente circostante producono delle variazioni nei sapori, mentre altri sottolineano il ruolo del contesto e delle aspettative. Ma quello che appare certo dalle esperienze dirette degli osservatori in tutte le regioni del mondo è che il nafas riguarda più che altro il legame tra le persone, la connessione che si crea tra chi cucina e chi mangia. E se, come assicurano tanti cuochi più o meno improvvisate nelle varie zone del Medio Oriente, il nafas è intrinseco, allora forse ognuno di noi può scoprirlo in se stesso. Quindi questo mi porta all'ultima forse domanda o affermazione, siccome riguarda il legame tra le persone, dunque è alla portata di tutti. Io immagino proprio di sì, Caterina. È una qualità che ognuno di noi, ovunque si trovi, può esplorare e manifestare. Quando siamo anche davanti al fornelletto, dobbiamo pensare che stiamo maneggiando qualcosa di prezioso, qualsiasi cibo esso sia, che lo stiamo trasformando per renderlo non solo commestibile, ma anche buono al palato. Ne stiamo esaltando le sue qualità. E al primo boccone possiamo rallegrarci di averlo avuto a nostra disposizione e di averlo saputo trasformare con le nostre mani. Grazie Antonella, lancia tu la canzone di oggi. La canzone di oggi è di un artista che negli Stati Uniti è conosciuto come The Spy from Cairo, ma in realtà si chiama Moreno Visini e di egiziano ha solo le sembianze della musica, infatti Moreno è italiano. Quindi ascoltiamo tutti il pezzo di The Spy from Cairo. Ciao a tutti, qui è Lorenzo e oggi continuiamo l'intervista insieme all'educatrice sociale Sara Malagoli. Via con la pillola! Allora, io Sara ti volevo chiedere, sulla base di quali criteri individuate solitamente le persone detenute a cui dare supporto? E nel caso un detenuto può cercare di contattarvi su sua iniziativa oppure no? Nel caso come funziona? Allora, per individuare i detenuti che necessitano un contatto e una valutazione, abbiamo appunto questa lista dove sono inserite i detenuti che usciranno da oggi ai prossimi 12 mesi. Si tenta di colloquiare tutti, però in particolare poi cerchiamo di concentrarci sulle persone segnalate dagli altri servizi interni, quindi per esempio dall'area sanitaria piuttosto che dall'area pedagogica, e quindi andare proprio a conoscere le persone che già altri professionisti hanno individuato come bisognosi di un nostro intervento, ok? Quindi un primo filtro viene fatto appunto dai professionisti interni. Altra modalità, insomma, altri criteri che utilizziamo è di guardare all'età anagrafica, quindi la giovane età e l'età avanzata sono criteri per cui noi abbiamo una maggiore attenzione. E le lunghe detenzioni e le brevi detenzioni, quindi ci muoviamo un po' agli opposti, devo dire, come per valutare quali sono le persone da... e con più necessità di essere conosciute dal nostro progetto. Come possono invece loro direttamente contattarci? Sì. Quindi un detenuto che ha una pena definitiva e sa di uscire entro l'anno può fare una domandina chiedendo di un colloquio con il progetto di Mittendi. In quel caso io ricevo le domandine e vado a colloquiare la persona. All'esterno io appunto lavoro al servizio Bassa Soglia. La rete dei servizi di Bologna ha abbastanza presente il fatto che all'interno del nostro servizio c'è questo progetto, per cui ci vengono segnalati eventualmente dimittenti che sono usciti dal carcere, anche altri carceri, non solo Bologna, e ce li segnalano, quindi poi ci mandano proprio una mail presentando la situazione e io do un appuntamento alla persona per conoscerla. L'importante è che siano usciti da un carcere nei 6 mesi precedenti, entro 6 mesi dalla scarcerazione. Ah, ok. Infatti, quando si esce è importante avere con sé il documento che viene rilasciato con la data di scarcerazione ed è quella che fa fede per la presa in carico o meno da parte di questo progetto. Quindi mi raccomando, no. Ricordatevi, se volete appunto entrare in contatto col servizio di Mittendi, di avere ben a portata di mano la lettera di dimissione. Adesso invece è il momento di un breve stacco musicale. Torniamo prestissimo. Say something, I'm giving up. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And over my head, I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Something I'm giving up on you. anywhere, I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Ricollegandoci al discorso che è venuto fuori delle domandine, sì. Quando la persona detenuta vi contatta, oppure quando comunque voi entrate in contatto dopo una segnalazione? La richiesta principale in realtà è il posto letto. Okay. Un posto letto proprio nell'immediato post scarcerazione, anche per un breve periodo. E molte persone, insomma, si trovano un attimo nella difficoltà di magari raggiungere un'altra città o riprendere contatti con familiari o amici, per cui c'è questa preoccupazione, no? Di non sapere dove andare anche semplicemente la notte dopo l'uscita. Per cui questa è una delle prime richieste. E l'altra è di contatto con avvocati piuttosto che parenti, per sempre un po' con l'obiettivo di organizzare l'uscita, quindi il dove andare il giorno dopo o il giorno stesso. Può capitare anche di contributi, quindi se una persona già prima sa di aver bisogno anche di raggiungere Roma, per cui ci chiede un contributo per il biglietto del treno. Queste sono già le persone che hanno proprio un'idea di muoversi, di spostarsi diretta subito da Bologna, per cui la richiesta è molto specifica ed è economica principalmente. E poi se vuoi aggiungo un'altra, in realtà che è sempre la prima domanda, ed è: cosa potete fare per me? Perché devo ammettere che insomma, in questi 2 anni ho riscontrato che per molte persone quando si è a ridosso dall'uscita c'è molta preoccupazione, proprio perché si vede già il momento del fuori, ma da dentro è sempre difficile poter organizzare e programmare tutto. Per cui a volte hanno proprio bisogno magari di sapere che oltre ai loro magari ipotetici piani c'è sempre un piano B, e il piano B può essere il progetto di Mittendi, per cui forse è quello che permette di avere davvero un po' più di tranquillità per la persona che sa di uscire ma non è certa di sapere dove andare, per cui sapere che comunque c'è un servizio a cui rivolgersi, eventualmente un posto letto, credo sia un'informazione che dà un po' più di tranquillità, cioè permette proprio di affrontare quest'ultimo periodo con un po' più di serenità. Assolutamente. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Torneremo presto con nuovi aggiornamenti da chi vive, per chi vive il carcere. Se avete qualsiasi domanda potete scriverci su Facebook o su Instagram al canale Liberi Dentro Eduradio. A presto, ciao a tutti! Bentornati, dopo aver ascoltato di nuovo la nostra ospite del servizio di Mittendi, Sara Malagoli, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento tra poco con le rubriche Oggi parliamo di, dove parleremo del convegno Eduradio TV che si è tenuto lo scorso 21 maggio, faremo un po' di riassunto di quello che è stata questa grande giornata dedicata appunto al nostro servizio Eduradio TV. Noi ci rivediamo domani, sempre ore 9 Radio Città Fujiko, 13 Lepida TV e ore 10.30 Teletricolore. Ringrazio Pasquale Pitagnello per il montaggio delle nostre puntate e anche Antonella Cortese sempre qui con me in puntata. Buona giornata a tutti e grazie a voi per l'ascolto. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.